Sono le 8:56 di mercoledì 22 ottobre 2025. In braccio il microfono, cosa che mi dispiace, insomma, lo faccio sempre meno spesso, ma a volte evidentemente lo sento ancora come un gesto, non dico necessario, perché sarebbe anche un po' esagerato, ma opportuno. E lo faccio quando arrivano a compimento alcune riflessioni che nascono dalle mie letture, dai miei interessi e dalla mia anche analisi dell'attualità. L'attualità ci dice che stiamo andando sempre più verso uno scontro di cui si cominciano a vedere segnali anche nelle piazze. Abbiamo avuto delle imponenti manifestazioni in Italia, di cui sicuramente quella di qualche settimana fa contro le violenze che si sono svolte negli ultimi 2 anni nella striscia di Gaza e in generale, insomma, quella che chiamiamo ancora Palestina, dove naturalmente l'elemento, non ce lo dobbiamo nascondere, l'elemento palestinese ha fatto anche da collante di tante istanze che sono sentite soprattutto dalle giovani generazioni, che sono completamente tagliate fuori dalla politica della generazione precedente. Da lì è poi anche nato un dibattito a volte interessante, a volte anche un po' peloso, dove si sono avvicendati alcuni importanti personaggi della cultura di questo paese. Partito Baricco con un post su Substack, come al solito scritto molto bene, poi però gli hanno risposto Michele Serra e altri personaggi, Augias. Dibattito comunque evidente, il fatto stesso che parta un dibattito sui giornali, un po' come succedeva negli anni 70, no? Iniziava questo dialogo, quasi questo carteggio pubblico, è di per sé qualcosa di nuovo, che ci riporta ad anni che sono anni di protesta, di confronto, di scontro. Poi a un certo punto, lo ricordiamo, la violenza entra dalla porta principale, no? Mentre per il momento mi sembra abbastanza chiaro che le proteste sono pacifiche, e anzi chi prova a infiltrarsi, non sappiamo se a titolo personale o guidati da qualche manona, però in ogni caso chi prova a infiltrarsi per trasformare questi cortei in cortei violenti poi adesso viene riconosciuto molto bene e isolato. E anche questo è interessante, perché vuol dire che comincia ad avere un ruolo anche il famoso servizio d'ordine, di cui io lamentavo l'assenza, quasi come discriminante tra una protesta militante e una protesta puramente performativa, puramente da attivista individuale, no? Anche un po' la manifestazione in piazza di quello slacktivism tanto criticato per la prima volta da Geert Lovink molto tempo fa, ma che ormai viene invece criticato da tutti, da chiunque soprattutto non scende in piazza, con un atteggiamento molto molto meno strutturato, un pensiero molto molto meno articolato di quello di Lovink. Chi non va in piazza perché magari non condivide la protesta dice che si va in piazza per farsi selfie al corteo. Questo è il massimo livello di profondità dell'analisi di quello che succede nelle piazze, ed è naturalmente un livello largamente insufficiente, io credo, a prescindere se si condividano o meno i motivi per scendere in piazza. Però diceva, un collante di tante istanze che riguardano proprio la condizione di questa giovane generazione, a cui viene consegnato un pianeta sulla via della distruzione. In realtà è la razza umana che è sulla via della distruzione per ragioni climatiche, non il pianeta, che è sopravvissuto a ben altre catastrofi in passato. E poi in generale la perdita di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi ragione per vivere che non sia all'interno del mercato, all'interno della dialettica competitiva tra vincenti e perdenti. E ho letto anche analisi abbastanza tranchant su questo, in chi non condivide la protesta. Sarebbero tutti comunque già dentro questo mercato, perché? Perché usano lo smartphone, usano le logiche performative e quindi competitive, quindi non sono veri movimenti di persone unite tra di loro, sono tanti individui che devono ostentare qualcosa, per esempio questa forma di fatto poi giudicata sterile di partecipazione. Ora io non so quanto sia sterile, cerco di prenderla più alla lontana, e dalle mie ultime letture che riguardano moltissimo gli anni 70, ahimè, antica ossessione, direi anche magnifica ossessione, vengono fuori invece dei parallelismi interessanti, non tanto su come poi dopo tutto questo determinò una evoluzione verso poi la lotta armata, lo scontro violento con lo Stato, eccetera, non è tanto questa l'analogia. L'analogia è su come evolve il racconto e la difesa dell'esistente da parte dei padroni del racconto, che sono oggi come allora persino più importanti e più potenti dei padroni dell'economia. No, quando si parla di giornali padronali, no? Che sono praticamente tutti i giornali che compriamo in edicola, sono giornali padronali. E ai tempi esisteva, in opposizione questo tipo di informazione, una cosa che si chiamava la controinformazione, dove dentro c'erano segnali interessanti di contiguità tra le proteste pacifiche, quindi le istanze che arrivavano direttamente dal popolo, e poi il fatto che alcuni di questi decisero di imbracciare le armi. Ecco, questi segnali di contiguità degli anni 70, sia nel racconto in tempo reale dell'attualità di quegli anni, sia poi successivamente nel racconto in retrospettiva dei 1000 libri che sono usciti e che raccontano ancora una volta quegli anni, cioè, noi tutti siamo stati esposti a un racconto per cui questa contiguità non esisteva. Chi imbracciò le armi erano dei pazzi, un corpo separato e che non aveva nessun reale collegamento con la protesta delle masse. E il paese in realtà poi dopo sconfisse tutto questo movimento, rimanendo fondamentalmente intonso, cosa che non accadde. C'è addirittura una teoria, quella di Piero Sansonetti, che parla di riformismo armato, cioè in sostanza senza le Brigate Rosse non avremmo avuto non tanto e non solo il divorzio e l'aborto, che sono riforme precedenti alla vera esplosione della violenza, al salto di qualità nell'attacco al cuore dello Stato, quanto per esempio riforme molto più legate alla condizione delle persone comuni, come per esempio l'eco canone, la scala mobile. Ecco, quelli furono dei calmieratori sociali davvero vasti e che contribuirono a togliere spinta e consenso intorno a chi invece decideva di imbracciare appunto le armi, i fucili, le pistole. E sia in tempo reale, in quegli stessi anni, attraverso il racconto giornalistico, sia la letteratura estremamente copiosa che ne seguì, cercano quasi sempre di eliminare qualsiasi traccia di questa continuità. Ecco, qui dobbiamo ancora una volta ringraziare internet, perché chi oggi, come sto provando a fare io, invece indaga e ritrova per esempio le fanzine in PDF di quegli anni, fanzine dove tra gli editorialisti figuravano i nomi di molti che poi divennero brigatisti, no? Cioè, ho rintracciato per esempio una fanzine del a cavallo tra gli anni 60 e 70, dove figura serenamente Renato Curcio tra gli autori. Ecco, inneggiano la violenza, indicano Calabresi, naturalmente nelle forme più odiose, no? Indicano Calabresi come il prossimo obiettivo, tu sarai il prossimo, perché ancora naturalmente non era stato assassinato, e perché però era già successo l'omicidio di Pinelli, quindi si era in anni in cui la violenza si respirava, e quindi aveva tranquillamente la violenza una sua cittadinanza pubblica attraverso queste pubblicazioni di incontro e informazione. Ecco, e questa è una traccia di contiguità, no? Perché se le frange forse un po' più esplicite del movimento di protesta pubblico si nutriva di queste pubblicazioni, che poi venivano distribuite serenamente in tutte le librerie, quelle che oggi non ci sono più, dell'epoca, questo vuol dire che questa frattura così, così netta che si è voluta far passare negli anni successivi non c'era. È questo che mi colpisce di più. Cioè, noi siamo stati esposti negli ultimi 30-35 anni a un racconto di quegli anni come gli anni dove c'era un gruppuscolo di pazzi cattivi e un paese che protestava e ha ottenuto le riforme. Non è andata così. Non è andata così, non abbiamo avuto appunto il divorzio, l'aborto, la legge Basaglia, lo statuto dei lavoratori del 70 solo perché qualcuno pacificamente è andato in piazza, ecco, ma perché lo Stato ha percepito il livello di rischio che si poteva raggiungere, e forse anche a un livello più alto, i famosi manovratori atlantici eccetera, in quegli anni hanno pensato che tutto sommato la cosa importante fosse mantenere l'Italia nello schieramento occidentale, visto che il rischio, l'unico vero rischio che preoccupava gli americani ai tempi, era che la cortina di ferro si spostasse a ovest ricomprendendo l'Italia, e se quindi si potevano usare queste riforme come elementi calmieranti poteva benissimo andar bene. Ecco, io credo che oggi, quindi, quando si solleva la questione di questi ragazzi non faranno la rivoluzione, ma soprattutto la necessità di dover ancora una volta creare questa dicotomia che non ammette sfumature tra rivoluzione da una parte e ipercapitalismo che ormai ci ricomprende tutti ed è giusto così perché ha vinto, ecco, questa dicotomia secondo me è profondamente tossica, sbagliata, e ci allontana dalla comprensione di quello che accade, perché oggi i ragazzi vorrebbero solo magari almeno le riforme che nel frattempo sono state cancellate, ok? Si sta cancellando lo statuto dei lavoratori, è stata naturalmente cancellata la scala mobile, ma non bisogna necessariamente reintrodurre quel meccanismo, però invece che pensare di dare il potere ai soviet nel 2025, che mi fa ridere mentre lo sto dicendo, magari si potrebbe tornare banalmente a ridare alle persone un po' di quei diritti che nel frattempo il capitalismo si è mangiato. Ecco, è questa la cosa che non si vuole dire e raccontare, quasi sbeffeggiando chi scende in piazza con la bandiera di Gaza come se fosse una volta la bandiera rossa e il libretto rosso di Mao. Non è questo il punto. Non è per questo che si scende in piazza. Si scende in piazza perché questa generazione non è affatto vero che voglia rimanere con tutte le alternative poste solo dal mercato. Vuole anche vedere quello che ci può essere fuori. Vuole riprendere in mano il controllo delle proprie esistenze fuori dal mondo capitalista che noi, la mia generazione, ha costruito nonostante il 68, nonostante il 77, nonostante tutta quella fase di grandi riflessioni, di grandi pensieri e anche di grandi scontri violenti.